Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.46 e tramonterà alle 20.41. Martedì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I nubifragi dei giorni scorsi hanno colpito duro una vasta fascia di territorio regionale, mettendo letteralmente in ginocchio l'agricoltura di quelle zone. Nel servizio di apertura, l'intervista a Cesare Magalini, direttore di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, che ci dice cosa possono e devono fare gli agricoltori per superare questo momento oltremodo difficile. Rimanendo in argomento anche nella rubrica del bio, una serie di consigli e considerazioni su agricoltura ed eventi climatici estremi. In quella del vino, tutto quello che si deve sapere sull'azione di un lievito subdolo, il Brettanomyces, nella macerazione del pigiato. Anche se il loro numero è esiguo, è meglio sapere come comportarci in caso di incontro in bosco con un orso. Ne parliamo nella rubrica dei forestali. Formaggio e pesce. Abbinamenti controversi, ne parliamo nella rubrica della gastronomia con una ricetta che vede assieme tonno e pecorino. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Un disastro naturale immenso, così lo ha definito Cesare Magalini, il direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, che è oggi con noi in studio. Qual è la situazione in campagna e soprattutto che fare? Le parole rendono proprio il caso. La situazione una è un'area vasta, cioè molto immensa, che è entrata dalla parte del Veneto, diciamo nel Pordenonese, San Vito, e poi ha passato tutto l'Udinese per finire poi nel Goriziano. Poche volte mi dicono che in Friuli abbiamo visto un'area così colpita con questa intensità. Dove ha colpito non si è salvato niente praticamente. La percentuale di danno è molto alta, sia sulle colture sia sui fabbricati. Avete cominciato già una prima stima dei danni? C'è qualche cifra? Allora, cifra totale no. Noi siamo partiti, diciamo, il giorno successivo. Ci siamo resi conto subito alle prime luci dell'alba, alle telefonate, che la cosa era grave, di grande intensità. Abbiamo noi spedito subito una mail a tutte le nostre aziende, poi sarà allargata anche alle altre. Noi siamo, insomma, giustamente partiamo con i nostri, parliamo di migliaia di mail e di migliaia di segnalazioni che passano dal tetto di Velto dalla Grandine, con chicchi come arance, quindi difficile difendersi dal tetto, ma anche gli impianti stessi del fotovoltaico sono stati rovinati, e poi anche le colture. Gli agricoltori adesso cosa possono e cosa devono fare? Istruzioni per l'uso. Stiamo rendicontando in maniera abbastanza dettagliata qual è il tipologia di danno, quindi anche di centrarlo, quindi relativa ai tetti, quanti sono le metrature, qual è il danno, qual è il costo di ricostruzione. E stessa cosa anche magari sulle attrezzature e poi anche sulle colture. Ho visto colture in giro con dei danni che a memoria mia non avevo mai visto. La mano pubblica come può e come deve intervenire? Allora, c'è stato, dopo le nostre segnalazioni, ma direi subito, il presidente Federica, che ha dato un segno importante, quello in cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 50 milioni di euro per tutte le categorie. Direi che è un segnale di vicinanza. Evidentemente la conta di danni sarà molto più salata, ma è un primo passo per far capire anche, visto che diciamo che l'intensità del fenomeno ha colpito la Lombardia, il Veneto, il Friuli, credo sia anche è buona norma mettersi insieme con il governatore per battere, diciamo, parlare col governo e trovare soluzioni che siano fuori dalla norma. Siamo di fronte a un fenomeno diverso dal solito. Stato di emergenza può aiutare? Assolutamente può aiutare, sì, perché permette anche di semplificare magari le opere di ripristino e dare una corsia preferenziale alle aziende ed anche ai cittadini. E non dimentichiamoci, c'è l'agricoltura, ma ci sono tutti gli altri settori che al pari nostro sono danneggiati. Lei è stato questi giorni in giro nei terreni dei disastri. Come ha visto la gente? Beh, la gente, devo darne atto, ero in giro anche ieri in alcune zone, Mortegliano, le Stizze, poi anche era un attimo l'epicentro, no, del fenomeno. Ho visto persone che non, seppur in difficoltà, che guardano avanti, diciamo, sono resilienti. Potrei dire in una parola, ecco, che il Friuli si piega ma non si spezza. Abbiamo la capacità di reagire. Ecco, occorre che le istituzioni diano una mano, e la volta anche io dico di far quadrato e di reagire rispetto a un'avversità, di ripartire magari dando la mano alle aziende di tutti i comparti. Non si vince da soli, eh. Ci vince insieme tra l'economia e la politica. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare. È nelle nostre mani, ce l'abbiamo nelle corde, quello che abbiamo di fronte a noi è anche una strada in salita, ma abbiamo la giusta marcia per ripartire. Che fare dopo grandine ed eventi climatici estremi come quelli dei giorni scorsi che hanno colpito duro le nostre campagne? Le considerazioni di Cristina Micheloni nella rubrica del bio. Estate difficile che mette a dura prova agricoltori e allevatori, per motivi opposti a quelli dello scorso anno, ma comunque drammatici. Che fare? Nel breve metterci qualche toppa, ma evidentemente anche cercare strategie di medio-lungo periodo per non ritrovarsi ogni anno in un guaio, diverso ed imprevedibile, ma pur sempre un guaio. Per oggi parliamo delle toppe, visto che su strategie alternative capaci di affrontare l'incertezza climatica abbiamo spesso disquisito. Ovvio che quanto sto per dire vale nei casi in cui c'è ancora qualcosa da salvare. Per le situazioni peggiori, e non sono poche, si può solo contare sui supporti economici che la regione metterà a disposizione, che comunque non restituiscono il prodotto. Per frutteti e vigneti danneggiati dalla grandine è importante effettuare al più presto un trattamento cicatrizzante con rame, magari addizionato con dell'estratto di propoli. Ci sono in commercio anche diversi prodotti biostimolanti che fanno lo stesso lavoro. Si tratta di alghe, aminoacidi e peptidi, ma anche di altre molecole naturali, come il chitosano. Oltre a facilitare la cicatrizzazione delle ferite su frutti e foglie, alcuni di questi stimolano anche la produzione di nuove foglie. Quindi attenti se non è quello l'effetto che desiderate. Una precisazione sul rame. In biologico si può utilizzare al massimo 28 kg a ettaro nell'arco di 7 anni, quindi con una media di 4 kg di rame metallico a ettaro a anno. Ma questa è la media, che nello specifico di ogni azienda viene calcolata negli anni precedenti, fanno testo i registri di campagna. La scorsa stagione ci ha dato una mano a risparmiarne, quindi ce la possiamo fare. Attenzione che il regolamento è cambiato alcuni anni fa e non c'è nessun limite ulteriore a 6 kg ettaro anno, oltre il quale si deve fare domanda di deroga alla regione. Lo preciso perché in questa difficile annata stanno girando informazioni confuse e già la vita del viticoltore è complicata di suo. Per l'orticoltura vale quanto appena detto per i prodotti cicatrizzanti, ma può diventare più utile anche la funzione di stimolazione alla produzione di nuove foglie. Tuttavia si deve anche ragionare sull'opportunità di ripartire, se il danno è elevato, con nuovi trapianti, sia di colture estive, zucchine e cetrioli, tenendo anche in considerazione la tendenza negli ultimi anni a prolungare la stagione calda, o almeno abbastanza calda, oltre ottobre, cosa che consentirebbe di continuare a produrre anche oltre l'usuale periodo. Per contro, si può anche provare ad anticipare qualche trapianto di autunnali. Ovvio che il successo dipenderà dalle temperature nei prossimi mesi, ma appunto l'imprevedibilità regna. Passando ai seminativi, chi ha sofferto di più è di certo il mais, che la grandine in alcune zone ha ridotto in condizioni tali che non si può far altro che terminare di trinciarlo e considerarlo un costoso sovescio. La soia, per conformazione e capacità di ricaccio, può avere delle chance e ci sono dei parametri per calcolarlo. Lascio il link sulla pagina Facebook. Che fare se la situazione non consente il recupero? Sui seminativi si può considerare una tardivissima, davvero tardivissima semina di soia, ovviamente con varietà a ciclo molto breve. Ma anche a colture come miglio, grano saraceno, fagiolo dall'occhio o fagiolo mungo, ma dovete anche avere l'attrezzatura per gestirli e soprattutto la possibilità di valorizzarli commercialmente. Gli allevatori che basano l'alimentazione delle proprie mandrie sulle foraggere e sul pascolo hanno pochi pensieri, chi conta sul silo mais e sulle granelle invece patisce. Nonostante le premesse e la situazione attuale, auguro a tutti una buona estate e vi lascio con un consiglio di lettura che magari è una motivazione ulteriore a pensare alle strategie e non solo alle toppe. L'uomo e la farfalla di Filippo Giorgi. Buona estate. La macerazione del pigiato, l'azione di un lievito subdolo, il Brettano Mices, è il tema sviluppato oggi nella rubrica del vino dal professor Roberto Zironi. In enologia ci sono dei lieviti buoni e quelli cattivi. Tra questi ultimi vanno annoverati i lieviti appartenenti al genere Brettano Mices. Questo lievito è ubiquitario e si trova nel terreno, nella corteccia degli alberi, e nei substrati zuccherini, ma soprattutto nei materiali della cantina. La sua elevata resistenza all'alcol gli permette, una volta passato nel vino, di mantenersi vitale fino alla fase di affinamento. In cantina questo microrganismo può colonizzare massivamente tutte le superfici, in particolare quelle di legno, che è un materiale caratterizzato da un'elevata porosità e da una notevole inerzia chimico-fisica, fattori che creano una nicchia ecologica ideale per i microrganismi, così protetti dagli stress ambientali indotti dal vino e dai trattamenti di sanificazione utilizzati in cantina. Bisognerà quindi porre attenzione ai vini da lunga maturazione che affinano il legno, ad esempio vini rossi importanti. Infatti, nonostante la crescita lenta, le lunghe fasi di affinamento gli offrono la possibilità di svilupparsi fino a produrre i composti che influiranno sulla qualità sensoriale del vino, sia a livello aromatico che sulla stabilità del colore. Brettanomyces non è in grado di svolgere in maniera efficiente la fermentazione alcolica, in quanto è poco vigoroso e non può competere con Saccharomyces, ma è capace di metabolizzare lentamente, oltre agli zuccheri presenti nei mosti, anche numerosi altri substrati tra cui l'etanolo, gli acidi cinnamici e gli aminoacidi, accumulando nel vino sostanze con un impatto organolettico negativo e in alcuni casi potenzialmente dannose per l'uomo, quali fenoli volatili, acidi grassi, piridine, acido acetico e anche amine biogene. Queste molecole hanno generalmente soglie di percezione olfattiva piuttosto basse e sono in grado di mascherare gli aromi varietali tipici del vino, apportando note sgradevoli e riconducibili a sentori grebi e pesanti conosciuti come nota Brett, assimilabile a note animali, di cuoio o di cavallo. Anche se per lungo tempo tale aspetto veniva considerato come espressione di tipicità in alcuni vini, soprattutto francesi, a questo sentore si dà oggi un significato generalmente negativo. Ad oggi non esistono tecniche risolutive per controllare lo sviluppo del Brettanomyces, quindi è opportuno innanzitutto creare un ambiente sfavorevole al suo sviluppo. La sanità dell'uva, l'analisi del mosto per evidenziare e correggere eventuali carenze nutritive, garantirà processi fermentativi efficienti. Il punto debole di questo lievito sta infatti nella sua scarsa vigoria. Durante l'affinamento in botte, il vino non può subire i comuni interventi volti ad eliminare del Brettanomyces, come le filtrazioni e la solfitazione, perché questi potrebbero compromettere i processi di maturazione e stabilizzazione della frazione fenolica del vino. Per questo motivo, negli ultimi anni si è diffuso l'uso, durante questa delicata fase tecnologica, come inibitore dello sviluppo del Brettanomyces, di un polisaccaride estratto dal fungo Aspergillus niger, il chitosano. L'ispettore forestale Dario Di Gallo oggi ci dà alcuni consigli per una migliore convivenza, il termine forse non è del tutto appropriato, con gli orsi che popolano anche i nostri boschi, in numero certamente inferiore alla Slovenia e al vicino Trentino Alto Adige. Il grave incidente verificatosi questa primavera nei boschi trentini ha sicuramente mutato quella che è stata fino ad oggi la percezione dell'orso da parte della popolazione regionale. Siamo passati da un'attenta ma prudente accettazione della loro presenza ad una netta radicalizzazione delle posizioni. Le nuove generazioni e i neofrequentatori della montagna sono più orientati verso una posizione che attribuisce la responsabilità di questi contrasti all'uomo e alla sua invadenza verso il mondo naturale, mentre i residenti e le generazioni più mature sono orientate verso una preoccupata contrarietà alla loro radicalizzazione nel territorio. In questa dinamica è molto importante capire quanto è diversa la situazione oggettiva della nostra regione rispetto a quella del Trentino, dove il numero degli esemplari è elevato. La popolazione di orsi in Friuli Venezia Giulia è esigua, con un numero annuo di presenze variabile fino ad un massimo registrato di 8 esemplari, tutti maschi, geneticamente schivi, con età variabile tra i 3 e i 5 anni, spesso in dispersione dal vicino territorio della Slovenia, dove il loro numero è elevatissimo. Ma alcuni esemplari hanno raggiunto la nostra regione dal Trentino, come l'ormai famoso orso Francesco, radicato in Carnia, caratterizzato da notevoli dimensioni, pelo tendente al biondo e un carattere piuttosto disinvolto. Dotato di collare satellitare, i suoi spostamenti vengono costantemente monitorati dall'Università di Udine in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale. Questa attività di controllo della specie ha permesso di limitare i danni sul territorio, agli allevatori e alle aziende agricole. Coscienti della loro presenza e della straordinaria importanza ecologica e culturale che rivestono, dobbiamo adottare un comportamento responsabile, evitando l'escursione in ore crepuscolari e notturne. In caso di incontro, facciamoci sentire senza eccessi. Allontaniamoci lentamente senza dare le spalle. Se l'animale si avvicina decisamente, caso assai improbabile con i nostri numeri, stendersi a terra, raggomitolati, con le ginocchia al petto, testa verso le ginocchia e mani intrecciate sulla nuca. Entrando nella diatriba tra pesce e formaggio, oggi Roberto Zottar ci parla dell'abbinamento tonno e pecorino in un piatto estivo. La ricetta dei calamari al forno suggeriva l'aggiunta a piacere di parmigiano, ma un'ascoltatrice non è stata d'accordo. Nella cucina c'è chi pensa che l'abbinamento pesce-formaggio sia un bisticcio di sapore o una forzatura sacrilega. I motivi sono vari, a partire dal sapore comunemente delicato del pesce in contrasto con quello più deciso del formaggio, fino ad arrivare alle zone di produzione del formaggio che solitamente sono molto diverse da quelle di pesca. Si tratta però di una sorta di diffidenza del tutto italiana e nessuno sa bene il motivo perché questo abbinamento sia considerato un severo tabù, ma tutti sanno che non va assolutamente fatto. Pesce e formaggio, divisi dalla nascita come madre e terra, a volte però si compenetrano e si completano magnificamente, come si può riscontrare in antiche preparazioni tradizionali italiche, andate in disuso negli anni, ma riscoperte e tornate in auge recentemente. Attenzione, questo non vuol dire che qualsiasi formaggio si sposi bene con qualunque pesce. Continueremo a osservare sbalorditi e con il cuore che piange il turista straniero che chiede il parmigiano per gli spaghetti alle vongole. Non abbineremo mai il tono forte e deciso di un pecorino con le note raffinate del branzino. La scelta degli ingredienti è fondamentale per godere appieno delle sfumature di gusto e modulazioni di dolcezza e sapidità. Gli abbinamenti tra pesce e formaggio avvengono soprattutto nel sud Italia, dove possiamo trovare involtini siciliani di pesce spada con pecorino o caciocavallo, polpette di sarde con parmigiano o il pecorino che accompagna riso, patate e cozze, una delle ricette pugliesi più tradizionali. Oggi vi parlerò dell'abbinamento tonno e pecorino in un piatto estivo che ho gustato a Carloforte, sull'isola di San Pietro, dove c'è un pezzo di Liguria in terra sarda. La ricetta linguine con tonno, olive, capperi, pecorino e buccia di limone è uno storico piatto dello chef Luigi Pomata in carta dal 1973, quando fu creato dal nonno Nicolo. In una ciotola capiente tritate grossolanamente 30 g di capperi dissalati con 60 g di olive verdi e 60 g di olive nere, sminuzzate 250 g di tonno sott'olio sgocciolato. Aggiungete 400 g di linguine calde cotte al dente e 4 cucchiai d'olio. Mescolate bene e disponete le linguine nei piatti. Servite con l'aggiunta di scaglietti di pecorino romano e grattugiate sopra scorza di limone. Il piatto racconta la ricchezza dell'isola con alcuni dei suoi sapori più rappresentativi, che esplodono in bocca donando al contempo dolcezza, sapidità e acidità. Buon appetito e buona estate! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato attivo con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 24,70 e 25 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,50 e 23 euro, l'orzo peso specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 8,40 euro il quintale e il frumento di 12,20 euro. Stabilità nelle quotazioni del settore zootecnico, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,10 e 3,60 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,50 e 3,10. Nel comparto dei vitelli da ristallo si evidenza pure prezzi stazionari. I Blubelga maschi sono quotati tra 6,30 e 6,80 euro il chilo, IVA compresa. I pezzati rossi fra 4,70 e 5,20. I frisoni tra 2,10 e 2,40. I bruni alpini tra 1,60 e 1,80. In lieve calo invece il mercato dei suini, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza a 4,46 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,21. Del comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 51 e 54 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, in calo l'erba medica per l'inserimento di sfalci abbondanti che viene quotata tra 24 e 25 euro al quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 13 e 15 euro al quintale. La paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro al quintale. Infine, cenni di pesantezza con prezzi in calo nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,46 a 1,48 euro al chilo, IVA esclusa. Le anatre da 3,41 a 3,45. I tacchini maschi da 1,65 a 1,67. Le faraone da 3,57 a 3,67. I conigli oltre 2,5 kg a 1,85 e 1,91. Le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Agli inizi della seconda decade del mese, l'aria calda sopraggiunta dall'Africa ha determinato condizioni di afa perdurante, specie in pianura di pomeriggio, ma anche sulla costa il sollievo è stato minimo. Il giorno 11 le minime non scendono sotto i 20 gradi neanche in pianura e viaggiano oltre 25 sulla costa con afa. Nella notte tra 11 e il 12 un sistema temporalesco interessa tutta la regione con piogge localmente abbondanti e venti forti in quota che superano i 130 orari a 1500 metri e localmente, con provenienza nord-ovest, sono sostenuti anche in pianura, intorno ai 70. Un altro passaggio temporalesco sia prevalentemente in pianura nella mattina del 12, sempre da ovest verso est. Medesima dinamica sia solo 24 ore dopo in piena notte tra il 12 e il 13, con un altro sistema temporalesco si sposta da ovest a est. Questa volta però gli effetti sono ben superiori, in particolare sulla bassa, dove si ha il passaggio di un grosso temporale con vento molto forte e raffiche fino a 130 orari da ovest a Palazzolo. Ma tutta la bassa è battuta da vento molto forte, con danni significativi. Dopo una fase più stabile e fresca tra il 16 e il 20, si ha un'altra ondata di caldo intenso. In pianura per 4-5 giorni si superano i 30 gradi di temperatura con afa, specie 17, con valori tra 35 e 37. Un altro passaggio temporalesco più intenso si ha tra il 21 e il 22 pomeriggio, con temporali più forti sulla costa, stavolta grandinate e raffiche di vento. Il 23 il tempo torna a stabilizzarsi e le temperature massime si riportano oltre i 30 gradi con afa. Ma sarà tra il 24 e il 26 che si avrà una prolungata fase temporalesca, caratterizzata da grandine molto grosse e chicchi dal diametro record per l'Europa, fino a 19 cm misurati. Dal 26 a ieri il tempo è stato relativamente più stabile, sempre soggetto a qualche improvviso temporale, e più fresco della norma. Da oggi invece si è riattivato il flusso occidentale, foriero di aria umida e a tratti instabile che ci accompagnerà per tutta la settimana entrante. Domani avremo una mattinata con prevalenza di sole, poi nel pomeriggio nuvolamenti e qualche rovescio temporale interesseranno prevalentemente la zona montana. Alborino della mattina si sostituirà la consueta brezza. Tra martedì e mercoledì arriveranno degli impulsi perturbati con rovesci temporali a partire dal pomeriggio, diffusi e ripetuti mercoledì con piogge anche abbondanti. Anche giovedì si profila dopo una breve pausa un nuovo fronte, con piogge abbondanti e temporali, che alternate a fasi più asciutte si produrranno fino a sabato. Piogge cumulate saranno superiori alla norma del periodo. In questo contesto instabile e piovoso a tratti, temperature non potranno risalire verso il caldo, mantenendosi intorno alla media o anche al di sotto. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se al pluf di avosto, al pluf grano e most, ovvero se piove il mese di agosto, piove grano e mosto, qui inteso anche come vino. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica 3 settembre. Per tutto il mese di agosto anche Vita nei Campi va in vacanza. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.